we fear. How in just a moment's time could one see forever after? I gently lie beside you and dream away my tears. To shine, questo era Ben Harper. Allora, un buon pomeriggio a tutti dal DJ Edo Rossi. Aspetta che come al solito siamo senza base, ora ce l'abbiamo, aspetta un attimo che si fa sempre le cose così, eccoci. Allora, un saluto, un abbraccio a tutti, caro popolo della famiglia Rock, un saluto dal DJ Edo Rossi, questa è Rock FM. Come tutti i lunedì in onda dopo il buon Fabione Treves, il suo Blues Express, e poi dal martedì al venerdì dalle 17 alle 19 ancora per un paio di settimane, poi ci sarà naturalmente l'ultima settimana di onda di Rock FM, all'interno della quale, come noto, salteranno gli schemi, un po' come si dice in tema calcistico, dove insomma faremo un po' di tutto, succederà veramente qualsiasi cosa all'interno degli studi della radio. Naturalmente voi potrete ascoltare tutto questo, qualsiasi cosa che succederà. Dicevo, un'ora per stare insieme, i contatti, la linea per mettervi in contatto con me è sempre la stessa, quindi la linea SMS 335 100 77 77, se volete scrivere i vostri messaggi, oppure l'email a edo@rockfamily.it. Cosa poter dire che non sia già stato detto della serata di venerdì scorso, se non un abbraccio enorme a tutti voi che ci avete regalato una serata veramente pazzesca e ci avete fatto provare delle sensazioni veramente al di sopra dell'immaginabile. È stato veramente una cosa pazzesca, mi riferisco naturalmente al concerto della Rock FM Stars Band in Piazza Liberty. So che se ne è parlato nel programma di Max, scusate, ma devo per forza ringraziare con tutto il mio cuore tutte le persone che sono venute al concerto, che hanno che ci hanno tributato tutto questo affetto. Grazie davvero, è stato veramente bello e speriamo di poter continuare ad abbracciarci e a condividere la passione per il rock and roll ancora per molto. Cominciamo subito, quindi più tardi nella seconda mezz'ora avremo anche degli ospiti, ne parleremo dopo. Intanto Negramaro. Con una canzone di qualche tempo fa che portava il titolo di Essenza. Allora, arrivano già dei messaggi al 335 100 77 77. Beh, che dire, allora vado immediatamente a rispondere. Dunque, un saluto a al faraone Fefinius II, che dice: riprendiamo le vecchie abitudini, oggi sei arrivato a bordo di una Jeep stile Renegade della ASD SPA. Sì, perché di solito, insomma, fino a qualche tempo fa, in base alla canzone con la quale cominciavo, dicevo con che, diciamo, mezzo di trasporto e in quale atmosfera, in quale ambiente ero stato, come dire, catapultato, dal quale arrivavo. Effettivamente le sonorità molto rock, tra virgolette, sudiste di Ben Harper fanno pensare a una Jeep Renegade, però trattandosi di Ben Harper preferisco pensare di essere arrivato a bordo di un surf, naturalmente compiendo incredibili evoluzioni su chissà quale incredibile onda di chissà quale paradiso tropicale. Poi un saluto a Paolo da Milano, che dice: Edo, potevi lanciarti anche tu sul pubblico venerdì, comunque è stato fantastico, grande serata di rock and roll. Caro Paolo da Milano, a fine concerto anch'io mi sono attuffato sul pubblico, ho fatto stage diving, crowd surfing, è stato bellissimo, anzi ne approfitto per ringraziare coloro i quali mi hanno sorretto il mio dolce peso e anche chi mi ha strappato la mia bellissima farewell camicia che utilizzavo per questo farewell tour. Ora magari a Gello, se riesco a riattaccare tutti i bottoncini, la rimetto, se no inventerò qualcos'altro. Poi un saluto anche a Mike che dice: stacco dalla famiglia e attacco l'autoradio, grandissimo il vostro concerto, comunque li abbiamo fatti neri quelli di Russi. Ora che non esistano queste cose, comunque devo dire che effettivamente la piazza di Milano è stata particolarmente toccante per una serie di motivi, senza nulla togliere agli altri pubblici, se così si dice, però diciamo che sono state tutte serate toccanti a loro modo, ecco, mettiamola così, sono state tutte serate all'interno delle quali abbiamo provato sensazioni veramente molto forti. Un saluto anche a Deca invece, che dice: zio Edo, salvami tu, i miei capi mi perseguitano, forse perché ho la radio a palla. Ti mando un grande bacio, grazie mille Eka. E che ti devo dire, digli ai tuoi capi che non rompano, che intanto ce n'è ancora per 3 settimane, che si possa godere Rock FM finché c'è. Un saluto anche a Sergio da Genova e un saluto anche a Minty Elisa, che insomma no, rivedi la tua posizione. Poi altri messaggi verranno letti più tardi. Vi ricordo anche edo@rockfamily.it. Effettivamente ho un po' l'ansia dei messaggi, anche l'altra volta a Rock TV non so perché ero lì che li leggevo, ne arrivavano tantissimi tutti uno addosso all'altro e non sono riuscito a leggerli bene, sto perdendo il giro, mamma mia, povero me. Senti, allora facciamo un gioco un po' alla Easy Rider, perché l'altro giorno riascoltavo questo disco e me l'ero quasi dimenticato. È un disco strano, un disco minore alla fine, non è un disco epocale della storia del rock, però giochiamo un po' a fare come fa Mox con Easy Rider. Ora vi faccio sentire di chi si tratta e voi ditemi se riconoscete questa band, perché secondo me non ce la fate, a parte i fan naturalmente, quelli più accaniti, secondo me non è facile individuare di chi si tratta, visto e considerato che c'è stato all'interno di questo disco un tale cambio di stile da renderli pressoché riconoscibili. 335-100-77-77, la linea SMS, edo@rockfamily.it. Give me that, you In effetti sembra non averlo beccato nessuno, a parte che forse a un certo punto di vista è anche un po' colpa della mia macchina leggitrice di SMS che se un attimo, come dire, si è spaventata avendo sentito questa ammazza di violenza. Però insomma, nessuno sembra aver indovinato il nome di questa band. Adesso magari davo ancora qualche istante di tempo alla macchina a vedere se magari si sveglia un attimo e si riprende. Però in ogni caso i messaggi eventualmente arriveranno. Allora, chi erano questi? Gli LA Guns. Abituati, cioè voglio dire, i paladini dello sleazy rock, eccetera, hanno fatto un disco che risale al 1996, che si chiamava American Hardcore, e aveva la particolarità di non avere la voce e il solito Phil Lewis, perché sapete che a metà degli anni 90 gli LA Guns hanno avuto diversi cambi di formazione. Tracy Guns, il chitarrista, ne ha combinati di tutti i colori, ha fatto poi dei dischi solisti eccetera, tra i quali insomma ha fatto anche questo disco, nel quale peraltro milita anche il batterista storico degli LA Guns, che è tuttora a bordo dell'astronave, ossia Steve Riley, a differenza di Tracy Guns, che come sapete ha formato un'altra band che si chiama Eleganze, con i membri con i quali aveva formato la band nel periodo diciamo pre-discografico, insomma prima che arrivassero a firmare un contratto discografico nel 96, con questo cantante Chris Van Dahl, che ora lo ricordiamo per essere il cantante di una band che si chiama Cherry Street o Cherry Saint o Cherry ST, chiamatela come accidenti vi pare, insomma diciamo cambiando un pochino lo stile, insomma un po' diverso da questo, aveva appunto impugnato il microfono degli LA Guns per la realizzazione di questo disco molto particolare, che vedeva le loro sonorità ben distanti da quelle alle quali ci avevano abituato e quelle alle quali con le quali avrebbero flirtato poi nei dischi successivi. Pensiamo alle ultime produzioni sia di Tracy Guns sia degli LA Guns, sono ben distanti da questo capitolo. Bene, ce li siamo ascoltati qui da Rock FM. Ora cambiamo decisamente sonorità, andiamo su qualcosa di un pochino più tranquillo, sia con il nuovo di Nick Cave and the Backseas, si chiama Dig, Lazarus Dig. Larry made his nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. Collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. And he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Lazarus, dig your soul. Lazarus, dig your soul. Lazarus, dig your soul. Back in that hole. Names for the ladies like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's Francisco, LA, I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. He ended up, like so many of them do, back on the streets of New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's got me something.